Il terzo anello, ad alta voce. Omero Antonutti legge I 23 giorni della città di Alba, di Beppe Fenoglio. I 23 giorni della città di Alba. Alba la presero in 2000 il 10 ottobre e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Ai primi di ottobre, il presidio repubblicano, sentendosi mancare il fiato per la stretta che gli davano i partigiani dalle colline, non dormivano da settimane. Tutte le notti quelli scendevano a far bordello con le armi. Erano esauriti gli stessi borghesi, che pure non lasciavano più il letto. Il presidio fece dire dai preti ai partigiani che sgomberava, solo che i partigiani gli garantissero l'incolumità dell'esodo. I partigiani garantirono e la mattina del 10 ottobre il presidio sgomberò. I repubblicani passarono il fiume Tanaro con armi e bagagli, guardando indietro se i partigiani subentrati non li seguivano un po' troppo dappresso, e qualcuno senza parere faceva corsettine avanti ai camerati, per modo che se da dietro si sparava un colpo a tradimento non fosse subito la sua schiena ad incassarlo. Quando poi furono sull'altra sponda, e su questa di loro non rimase che polvere ricadente, allora si fermarono e voltarono tutti in direzione della libera città di Alba, urlando: «Venduti, bastardi e traditori, ritorneremo e vi impiccheremo tutti!» Poi dalla città furono visti correre a cerchio verso un sol punto. Era la truppa che si accalcava a consolare i suoi ufficiali, che piangevano e mugolavano, che si sentivano morire dalla vergogna. E quando gli parve che fossero consolati abbastanza, tornarono a rivolgersi alla città e a gridare «venduti, bastardi, eccetera». Ma stavolta un po' più sostanziosamente, perché non erano tutti improperi quelli che mandavano. C'erano anche mortaiate che riuscirono a dare in seguito un bel profitto ai conciatetti della città. I partigiani si cacciarono in porte e portoni, i borghesi ruzzolarono in cantina, un paio di squadre corse agli argini da dove aprì un fuoco di mitraglia che ammazzò una vacca al pascolo sull'altra riva e fece aria ai repubblicani, che però marciarono via di miglior passo. Allora qualcuno s'attaccò alla fune del campanone della cattedrale, altri alle corde delle campane delle altre 8 chiese di Alba, e sembrò che sulla città piovesse scheggioni di bronzo. La gente, ferma o che camminasse, teneva la testa rientrata nelle spalle e aveva la faccia degli ubriachi o quella di chi s'aspetta il solletico in qualche parte. Così la gente, pressata contro i muri di Via Maestra, vide passare i partigiani delle Langhe. Non che non ne avesse visti mai, al tempo che in Alba era di guarnigione il secondo reggimento cacciatori degli Appennini e che questi tornavano dall'aver rastrellato una porzione di Langa, ce n'era sempre da vedere uno o due, con le mani legate col fil di ferro e il muso macellato, ma erano solo uno o due, mentre ora c'erano tutti. Come credere che ce ne fossero altri ancora, e nella loro miglior forma? Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Fece un'impressione senza pari quel partigiano semplice che passò rivestito dell'uniforme di gala di colonnello d'artiglieria, con gli alamari neri e le bande gialle, e intorno alla vita il cinturone rosso-nero dei pompieri col grosso gancio. Sfilarono i badogliani con sulle spalle il fazzoletto azzurro e i garibaldini col fazzoletto rosso, e tutti o quasi portavano ricamato sul fazzoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti. Lesse nomi romantici e formidabili che andavano da Rolando a Dinamite. Con gli uomini sfilarono le partigiane in abiti maschili, e qui qualcuno fra la gente cominciò a mormorare: «Ai, povera Italia!» Perché queste ragazze avevano delle facce e un'andatura che i cittadini presero tutti a strizzar l'occhio. I comandanti, che su questo punto non si facevano illusioni, alla vigilia della calata avevano dato ordine che le partigiane restassero assolutamente sulle colline, ma quelle li avevano mandati a farsi fottere e s'erano scaraventate in città. a proposito dei capi, i capi erano subito entrati in municipio per trattare con il commissario prefettizio e poi, dietro invito dello stesso, si presentarono al balcone lentamente per dare tutto il tempo ad un usciere di stendere per loro un ricco drappo sulla ringhiera. Ma videro a basso la piazza vuota e deserti i balconi dirimpetto, sicché la guardia del corpo corse in via maestra a spedire in piazza quanti incontrava. A spintoni ne arrivò un centinaio e stettero con gli occhi in alto, ma con le braccia ciondoloni. Allora le guardie del corpo serpeggiarono in quel gruppo chiedendo tra i denti: «Oi, perché non battete le mani?» Le batterono tutti e lungamente, nonché di cuore. Era stato un attimo di sbalordimento. Su quel balcone c'erano tanti capi che in proporzione la truppa doveva essere di 20.000 e non di 2.000 uomini. E poi in prima fila si vedeva un capo che su dei calzoncini corti come quelli di una ballerina portava un giubbone di pelliccia che da lontano sembrava ermellino, e un altro capo che aveva una divisa completa di gomma nera con delle cerniere lampeggianti. Intanto in via maestra non c'era più niente da vedere. Giunti in cima, i partigiani scantonarono. Una torma che ogni incrocio si ingrossava corse ai postriboli della città, con dietro un codazzo di ragazzini che per fortuna si fermarono sulla porta ad attendere pazientemente che ne uscisse quel partigiano la cui divisa o la cui arma li aveva maggiormente impressionati. In quelle case c'erano 8 professioniste che quel giorno e nei giorni successivi fecero cose da medaglia al valore. Anche le maîtresse furono bravissime, riuscirono a riscuotere la gran parte delle tariffe, il che è un miracolo con gente come i partigiani abituata a farsi regalar tutto. Ma non erano tutti a puttane, naturalmente, anzi, i più erano in giro a requisir macchine, gomme e benzina. Non senza litigare tra loro con l'armi fuori di sicura, scovarono e si presero una quantità d'automobili con le quali iniziarono una emozionante scuola guida nel viale di circonvallazione. Per le vie correvano partigiani rotolando pneumatici, come i bimbi d'una volta, i cerchi nei giardini pubblici. A conseguenza di ciò, la benzina dava la febbre a tutti. In quel primo giorno, e poi ancora, scoperchiavano le vasche dei distributori e si coricavano con la pancia sull'asfalto e la testa dentro i tombini. «Le vasche sono secche, secche da un anno», giuravano i padroni, ma i partigiani li guardavano in cagnesco e dicevano di vedere i riflessi e che quindi la benzina c'era. I padroni cercavano di spiegare che i riflessi venivano da quelle due dita di benzina che restano in ogni vasca vuota, ma che la pompa non pescava più. Allora i partigiani riempivano di bestemmie le vasche e lasciavano i padroni a tapparle. Benzina ne scovarono dai privati, pochissima però. La portavano via in fiaschi. Quel che trovarono in abbondanza fu etere, solvente ed acqua ragia, coi quali combinarono miscele che avvelenarono i motori. Altri giravano con in mano un elenco degli ufficiali effettivi e di complemento della città. Bussavano alle loro porte, vestiti da partigiani, e ne uscivano poi bardati da tenenti, capitani e colonnelli. Invadevano subito gli studi dei fotografi e posavano in quelle divise con la faccia da combattimento che spaccava l'obiettivo. Intanto, nel civico collegio convitto, che era stato adibito a comando piazza, i comandanti sedevano davanti a gravi problemi di difesa, di vettovagliamento e di amministrazione civile in genere. Avevano tutta l'aria di non capircene niente. Qualche capo, anzi, lo confessò in apertura di consiglio. Segretamente si facevano l'un l'altro una certa pena, perché non sapevano cosa e come deliberare. Comunque, deliberarono fino a notte. Thank you. Quella prima notte d'occupazione passò bianca per civili e partigiani. Non si può chiudere occhio in una città conquistata da un nemico che non è stato battuto. E se il presidio Fuggiasco avesse cambiato idea o avesse incontrato sulla sua strada chi gliel'avesse fatta cambiare e cercasse di rientrare in alba quella notte stessa? I borghesi nell'insonnia ricordavano che la sera nel primo buio quel pericolo era nell'aria e stranamente deformava le case e le vie, appesantiva i rumori, rendeva la città a momenti irriconoscibile a chi c'era nato e cresciuto. E i partigiani, che in collina riuscivano a dormire seduti al piede d'un castagno, sulle brande della caserma non chiusero occhio. Pensavano, e in quel pensare che a tratti dava nell'incubo, Alba gli pareva una grande trappola, con le porte già abbassate. Era l'effetto del sentirsi chiusi, per la prima volta. Le ronde che viaggiavano per la città nel fresco della notte erano molto più tranquille e spensierate. Non successe niente, come niente successe negli 8 giorni e nelle 8 notti che seguirono. Accadde solo che i borghesi ebbero campo ad accorgersi che i partigiani erano per lo più bravi ragazzi e che come tali avevano dei brutti difetti e che in materia di governo civile i repubblicani erano più competenti di loro. Accadde ancora che uno di quei giorni, all'ora di pranzo, da Radio Torino si sentirono i capi fascisti del Piemonte alternarsi a giurare che l'onta di Alba sarebbe stata lavata, rovesciata la barbara dominazione partigiana, eccetera, eccetera. La mattina del 24 ottobre, le scolte sul fiume, che di buon'ora pescavano con le bombe a mano, facendo una strage di pesci che ancor oggi i pescatori se ne lamentano, videro sulla strada Alba Bra avanzarsi un nuvolone di polvere e da questo usciva un tuono di motori. Spiando negli intervalli tra un pioppeto e l'altro, contarono una dozzina di grossi camion e un paio di piccoli carri armati. Su Alba suonò la sirena municipale. I civili si incantinarono e la guarnigione corse agli argini che già sul fiume si incrociavano i primi colpi. La Repubblica stabilì un fronte di non più di 30 chilometri, disteso tra un pescheto e un arenile, e cercò di far forza nel punto migliore per il guado, immediatamente a valle del ponte bombardato dagli inglesi. Ma i partigiani concentrarono le mitraglie e quando quelli si presentarono al pulito fecero una salva che li ricacciò tutti nei cespugli, finché mandarono avanti uno di quei carri armati che si calò nel greto come un verme. Facendo fuoco da tutti i suoi buchi, entrò nella prima acqua alta 2 palmi, ma un mortaista partigiano azzeccò un colpo da 81 che rovinò giusto sul carro, che fece poi molte smorfie per tornarsene via. E dopo un altro po' di bordello, tanto per prorogare il pranzo ai partigiani, allora una pomeridiana la Repubblica se ne andò, ma non così in fretta che una squadra partigiana non guadasse il fiume e arrivasse al sedere della retroguardia, e se non la catturarono tutta fu perché persero tempo a raccattare le armi che quelli gettavano. La sirena suonò il finis e fu un bel pomeriggio con in piazza Umberto I il sole e la popolazione tutta ad aspettare i partigiani che tornavano dagli argini cantando la famosa canzone che dice: «O tu Germania che sei la più forte, fatti avanti se ci hai del coraggio, se la Repubblica ti lascia il passaggio, noi partigiani fermarti saprem». si dichiarò il pomeriggio festivo. La gente riempì i caffè e offrì le bibite ai partigiani. Fecero accendere le radio sulla stazione di Torino e siccome Radio Torino taceva, gridavano «Parla adesso!» E la presenza di tante signore e signorine patriote non era un motivo per cui non si dovesse dar forte del fottuto a quelli di Radio Torino. Ma la sera e la notte molti pensarono che era forse meglio che i partigiani non l'avessero date tante secche ai fascisti, perché poteva darsi che si dovesse poi pagare il conto. All'indomani, da Radio Torino, parlò il federale di tutto il Piemonte e, sorvolando sul fatto d'armi del giorno precedente, disse che Alba sarebbe stata riconquistata alla vera Italia, ad ogni costo e quanto prima. Tutti in Alba lo ascoltarono e, partigiani per primi, presero le sue parole interamente sul serio. Le pattuglie notturne sugli argini furono triplicate. Era un servizio che portava l'esaurimento nervoso, col fiume che di notte fa migliaia di rumori, tutti sospetti, e sull'altra riva luci che s'accendono e si spengono. Una parte dei borghesi lasciò la città, dicendo ai vicini che andavano a passare un po' di giorni in campagna, e nessuno si ricordò d'obiettare che non era più la stagione. Ma verso la fine di ottobre piove in montagna e piove in pianura. Il fiume Tanaro parve rizzarsi in piedi, tanto crebbe. La gente ci vide il dito di Dio, veniva in massa sugli argini nelle tregue di quel diluvio e studiava il livello delle acque, consentendo col capo. Pioveva notte e giorno, le pattuglie notturne rientravano in caserma tossendo. Il fiume esagerò al punto che si smise d'aver paura della Repubblica per cominciare ad averne di lui. Poi spiovve decisamente, ma il fiume rimase di proporzioni più che incoraggianti. Sugli argini, a tutte le ore, conveniva parecchia gente. Quasi tutti oziavano perché non c'era più la costanza di lavorare in quello stato di cose, e tra quella gente c'erano vecchi soldati della guerra del 15 che esaminavano il Tanaro e facevano paragoni col Piave. Lo stesso giorno che spiovve, il comando piazza, per certe vie note a lui solo, venne a sapere che i repubblicani avrebbero attaccato agli ordini di generali, e non più tardi del 3 novembre. Il comando provvide a far minare qualche tratto d'argine, ad allagare dei prati tra il fiume e la città, deviando un canale di irrigazione, e a far preparare le liste dei civili da reclutare per la costruzione di barricate alle porte della città. Altro non gli riuscì di fare, perché gli portò via un gran tempo il dare udienza ad una infinità di gente che aveva cose importantissime da riferire. Erano per lo più commercianti ambulanti che battevano i mercati dell'Oltretanaro presidiati dalla Repubblica e sapevano addocchiare tutto guardando in terra. Così si seppe, tra l'altro, che sulla collina di Santa Vittoria avevano già postati i cannoni da 149 prolungati, coi quali, in caso di difesa irragionevolmente protratta, avrebbero spianato la città di Alba, e che a Monte di Pollenzo c'era ormeggiata una flottiglia di barconi per il passaggio del fiume. Ma la notizia più interessante e sicura la portò al comando un prete della Curia. Si trattava che i capi fascisti chiedevano un colloquio in zona partigiana e si auguravano che per il bene della città di Alba i capi ribelli lo concedessero. I capi partigiani non dissero di no e il giorno fissato si recarono con scorta al punto stabilito, alquanto distante dalla città che era il nocciolo della questione. I capi fascisti, i più terribili nomi di quella Repubblica, arrivarono tagliando il fiume con un barcone. E siccome quella traversata poteva rappresentare una prova generale, i partigiani sull'altra sponda rimasero malissimo a vedere con che sicurezza quel barcone passò il fiume gonfio. Sbarcarono, e mentre i più salirono a riva col fango alto agli stivali, alcuni vecchi e grassi si impantanarono irrimediabilmente. Si videro allora i partigiani della scorta calarsi in quel fango, caricarsi i gerarchi sulle spalle e riarrampicarsi poi a depositarli sul solido. I gerarchi ringraziarono, offrirono sigarette tedesche e quindi s'appartarono coi pari grado partigiani. Fu lunghissimo parlamentare che fece crescere la barba alla scorta, ma alla fine si restò come se niente fosse stato detto. I fascisti non vollero dire che non avevano voglia di riprendersi Alba con la forza. I partigiani non vollero dire che non si sentivano di difenderla a lungo. E da queste reticenze nacque la battaglia di Alba. I capi fascisti, infangatissimi, ripartirono col loro barcone dicendo «Arrivederci sul campo!» E i partigiani risposero «Certamente!» e stettero a guardare se quelli, per caso, non facessero naufragio. Non lo fecero. Omero Antonutti ha letto I 23 giorni della città di Alba, di Beppe Fenoglio. Riduzione di Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it